senza nessun motivo, non è il caso, dai. Furamari. Di cosa stiamo parlando? È che purtroppo le cause sono riconducibili da un'altra parte, non certo per certi motivi, dai, non è un discorso troppo lungo da fare. E niente, quindi secondo me è tutto molto esagerato, dai, non è il caso, dai. Ma guarda, io solitamente vado una volta alla settimana per l'aspetto, poi prendo tre casse di acqua, poi la birra, quello mi serve comunque. Sono andato, la prima cosa che ho detto, cazzo, non c'è acqua, vabbè, credo, pazienza, prendo quello che riesco a prendere, quello che mi serve, al limite dopo mattina, oppure quando esco da qua vado in un altro negozio e adesso andavo a prendere quello che c'è lì a Pedanietta, si è fermata la macchina vicino a me, in fretta e in furia, dai, cazzo, qua non c'è acqua, dai, andiamo un altro, che stanno andando lo scema. Vabbè, io mi sono fatto la spesa, di nuovo mattina sono andato, dovevo andare alla Gellesse a prendere un pacco per un amico, c'è l'MD lì vicino, ne approfitto se c'è, se c'è andato a prendere l'acqua, e c'era l'acqua a gogo, ma ce n'era parecchia, ma ti parlo che era aperto, c'era già la fila di gente con i carrelli pieni di acqua. E ho detto, sono io scemo, saranno loro che sono più vicini, non so. Senti, mi è capitata la stessa cosa quando è partita quella cosa su WhatsApp dei camionisti, patapi patapà. Sono andato all'Eurospin giusto perché dovevo prendere dei biscotti, non mi ricordo cosa. Cazzo, cioè, ci ho bruciato tipo 40 minuti a fare la fila alla cassa con una busta di biscotti e c'era gente che si stava portando via l'impossibile, cioè, per dirti, no? Come reagisce l'essere umano, cioè, il panico, no? Quando poi la gente accende il televisore e sente, perché io li definisco idioti, cioè, nel senso, poi ognuno fa come meglio crede, però dico, cazzo, non siamo ancora a questi livelli, grazie a Dio. E ti ripeto, devo prendere un pacco di biscotti o dei plum cake, non me la metto. Cazzo, ho aspettato tipo 40-45 minuti, c'era la gente che si stava caricando l'impossibile. Ma io scusa, poi ti rilancio mai. Io ho visto un video che mi sembra che era proprio dello screen di telefonatore, non mi ricordo, ma stava tuffando, cioè la fila erano lì alle casse che stavano tuffando. Vai. È così, purtroppo è così. Guarda, succede oggi, stasera io sono uscito, sono stato le 6:30, non di più. Cazzo, c'era rimasto solamente un pollo, non c'era né i gamberi, pollo, cioè né cosce, né tanto meno. Guarda, a me mi fanno schifo la verità, i cosi. Il resto del pollo, ma cosa, lasciate due polli interi, tutto siamo portato via, hai capito? La gente ormai è spaventata, il discorso è quello lì, hai capito? E non fa altro che leggere, cazzo, su questo cazzo di telefonini, Google, cosa del genere, e uno dice una cosa, l'altro dice un'altra, e quella gente ci crede, cazzo, a un certo punto piglia e fa l'azione della roba, hai capito? Acqua, cazzo, è strano che non si può trovare la birra e il vino, la verità è strano, guarda, perché sono intanto per dire sfumanti, cose del genere, nulla, tutto rimane lì, tana che non vado a mangiare, quella sarà proprio via. Pollo, bistecche, coso, salsiccione, eccetera. E dove cazzo tu lo metti, no? Nel freezer, poi. E come cazzo lo cucini? Se non facessi un attacco, tanto per dire, come dice Putin, cazzo ci sarà un attacco, cazzo in pratica le vedete che non funzionano più, come cazzo lo cucini quella roba lì, cazzo? Se lo metti sotto al culo, cazzo, lo scaldi, cazzo, ma è una cosa esagerata, io da cazzo, a un certo punto, a meno che non ti metti la bicicletta elettrica, cazzo, e fai così, cazzo, per mezz'ora per scaldare, cazzo, di fuori la microonde, cazzo. Ascolta Antonello, hanno inventato l'accendino e la legna, ti fai il fuoco e te lo cucina addosso, bene va. Sì, piacere, anche io sono d'accordo con te, ma cazzo, ma secondo te l'economia cosa fai? E scende il terrazzino, cazzo, metti fuoco la cattolina di casa, cazzo. Dove cazzo va perché la legna? Cazzo, a questo punto. Io ho la campagna e lì mi salvo al limite, scendo lì, prendo, cazzo, e mi piglio mi faccio portare i coso, quella legna che usano per portare, cazzo, i cosi, che posso dire, non si chiama, i pallet, i pellet, ma non mi lamento più, ma comunque sia, prendo quella, cazzo, mi divento a fuoco, sono a posto, non succede nulla, ma tu immagini se un comune se metti una cosa del genere, ma stai scherzando, cazzo, poi... Scusa Antonio, se ci dovesse essere una guerra, si stai preoccupando del condominio, ma che cacchio se ne porta del condominio, se devo mangiare, ma secondo te questi problemi li metto, mi lascia perdere, va. Bravo ragazzi, è stato molto interessante questo argomento, mi approfitto ora che ho smarchi, perché se non quello poi non mi fa più entrare. Ora con Marchi vi saluto, grazie della vostra compagnia, è stato bello, però anche io ho una vita da continuare a portare avanti domani e devo dormire, farò delle cose domani presto, quindi mi devo riposare. Niente, vi saluto. Ciao, buonanotte a tutti, vai già. Eia. Niente dai, grazie a te per la compagnia, per la chiacchierata, sì vabbè, a parte poi ognuno se la vive come giustamente, come meglio crede. Ultima cosa, come mi ascolti? Ho aggiustato un microfono, ci ho messo una capsula con la condensatore della batteria, come mi ascolti a livello di suono? Bene, però sì, la portante in sintesi da parlare. Ah, 1, 2, 3. È una leggera, ma proprio leggera, c'è qualche abitatore vicino, alternata, ma proprio leggera, l'ho sentita perché ci ho fatto caso, ma quando moduli l'annulli, Tipo un ronzio, dai. Leggero, proprio, come dire, un abitatore vicino. Capa. Va bene, dai, grazie mille, dai, anche io mollo gli ormeggi e vado a dormire, dai, salutoni, grazie della compagnia, grazie Tino, Alessio, gli ascoltoni, e Alessio di Bucu e tutti quanti, dai, buona serenata a tutti, dai, ciao Tino, ciao Alessio e avanti a tutti. Oh Tino, ti volevo dire una cosa, infatti la quella persona che conosci tu, le frequenze dei militari russi, così me la ascolti un pochettino, dato che si sente, a quanto sembra, hanno scritto così, si sentono fino in Italia, in pratica sono in difficoltà, stanno chiedendo aiuto i militari russi. La frequenza dei militari russi, quelli che sono in Ucraina, che stanno facendo il, come si chiama, c'è la frequenza V e U, e quindi in pratica si sentono in chiaro, hai capito, li stanno ascoltando anche gli americani, li stanno ascoltando. in pratica sono, questi qua sono in difficoltà e stanno abbandonando tutto perché in pratica perché non sanno come diavolo fare, se sono stomati, come facciamo i tedeschi in pratica, ti ricordi tanto tempo fa si sono infangati, la stessa identica cosa, hai capito? Quindi in pratica i rematuri che ci sono in ascolto stanno ascoltando le frequenze che usano i militari russi, che sono in chiaro, sono in V e sono in U. Io la frequenza la verità non la so, ma tu sai a chi chiedere, lo sai anche tu più di me, a un certo punto, quindi te lo saprà dire, a me la ascolti e ti saprà dire qualcosa. Vediamo, se riesco a... già, devo chiedere. Va bene, ti farò sapere nel caso. Ok, ciao, buonanotte a tutti. E io, d'accordo, non c'è problema. Io l'ho visto stasera, se tu vai su Google, lo trovi subito direttamente. Basta mettere Google, guardi come si chiama, ci sono in pratica dei relatori certo, che stanno aiutando gli americani. Perché sento le conversazioni in pratica dei militari russi e poi in pratica a possesso russo glielo convertono in americano, capito? Tutto lì. Sì, vabbè, ma su Google cosa devi cercare? Niente, non devi cercare niente, sono che fate una spatolata di quello che c'è su Google e c'è scritto in pratica che in pratica aspetta, te lo dico subito, vediamo un pochettino se non ho cambiato la verità seritta. Aspetta un attimo. Allora, Fatima, Antonio Succi, la consacrazione di Papa Francesco, del resto miracoloso che segue il rito. E uno. Poi c'è Verso il piano aereo per il gas. Reggimento Azov, il comandante è l'ovvero nazista. Dopodiché, legge di cittadinanza, c'è la ricetta. Fondo sovrano russo su se tu vuoi cazzo di roba iniziamo a restare a secco caso l'Austria inizia a restare il gasolio e siamo a posto quindi avvisa non sei un cazzo di avvisa salito cazzo di cosa, cazzo, affanculo, cazzo è sparito. Sì, proprio là, dottore, già, se sento qualcosa ti faccio sapere, ok, ciao, buonanotte, buonanotte a tutti. Comunque sì, te lo sto dicendo, è in V e in U, la frequenza delle... hai capito che usano i corsi, i militari degli ucraini, è quello che mi ricordo io, la verità, quindi... V e U, poi lo sai, chiedi alla persona che conosci tu bene, lui lo sai che le frequenze le conosce, quindi a un certo punto. Ok, se sento qualche cosa, qualche dubbio, faccio sapere. Ciao, buonanotte, quello è il esecutivo da parte mia. D'accordo, Papa Francesco, a Kiev e Putin pronto a scatenare in inferno. Il Vaticano ferma il pontefice, cazzo. Non deve fare un caso a Putin, quindi prepariamoci e siamo a posto.